Che se io fossi Bruto, e Bruto Antonio, qui ora ci sarebbe un Antonio che squasserebbe i vostri spiriti. Mi stupisco di parlare per incantarvi, mentre vorrei liberarvi per confondervi. Mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro piangeva. Letture di Radio 24. I mezzi di comunicazione virtuale riescono a soddisfare le esigenze di chi richiede un'informazione immediata e gratuita, ma non sono in grado di finanziare un'analisi più approfondita delle notizie. Che fine faranno i grandi reportage? Jonathan Galassi, presidente di una delle più importanti case editrici americane, si interroga sul futuro del giornalismo di inchiesta. Leopardi rideva ai giornali, propugnatore di quelle fuorvianti nozioni di progresso che lui considerava la grande illusione della sua epoca. Eppure negli ultimi 200 anni abbiamo vissuto una cosiddetta cultura della stampa, dove i giornali indipendenti, non assoggettati all'autorità di governo, hanno incoraggiato lo sviluppo di una società democratica. La possibilità come cittadini di essere informati di cosa accade veramente, diritto per noi fondamentale, ci è data da un'istituzione votata all'indagine, alla comprensione e alla spiegazione del mondo così com'è. Il giornalismo d'inchiesta è uno dei generi letterari più illustri e vivaci, anche se di matrice più anglosassone che europea. Credo infatti che una delle ragioni dell'enorme successo di Gomorra, il grande libro di Saviano, sia proprio l'essersi ispirato a quel tipo di scrittura, un'inchiesta scettica, a volte indignata, condotta da un cittadino disincantato. Molti dei nostri grandi scrittori si sono fatti le ossa su quel tipo di reportage. Stephen Crane scriveva della guerra civile americana, Hemingway, Orwell e Dos Passos della guerra civile spagnola. Dispacci di Michael Hare è stato uno dei libri fondamentali all'epoca della guerra in Vietnam. E William Langevish, George Packer e Dexter Filkins, fra gli altri, hanno messo alla prova e affinato il loro talento in Iraq. Non erano blogger che discettavano seduti davanti al computer. Non erano stati assoldati, cooptati dai governi sui quali dovevano scrivere. Erano usciti allo scoperto, nel fango del mondo, per trasmetterci le notizie essenziali che sono poi entrate a far parte della nostra letteratura. Questi scrittori hanno girato il globo in lungo e in largo e hanno imparato a riflettervi sotto gli auspici dei giornali. Erano i giornali a pagare le loro avventure per i propri lettori. Internet ha cambiato tutto. L'informazione non è più quotidiana, ma minuto per minuto. Le ultime notizie ci arrivano in tempo reale sul cellulare. Il giornalismo, l'informazione quotidiana, è diventato qualcosa di diverso, non è più la notizia, ma una sorta di metabolizzazione intermedia della notizia. Troppo rapida per un'analisi approfondita, ma più contestualizzata di quanto un mezzo di informazione audio o visivo possa permettere. Eppure, come tutto quel che circola in rete, ci si aspetta che sia gratuito, senza dover contribuire a sostenerne i relativi costi, e ce ne sono stati. Così, mentre i giornali vengono rimpiazzati dai mezzi di informazione virtuali, i proventi di pubblicità e abbonamenti che finanziavano queste vaste operazioni di ricerca si stanno volatilizzando. Da editore coinvolto in prima persona, non posso che esprimere grande pena e sconcerto in proposito. Dove troveremo e coltiveremo i grandi scrittori che daranno un senso a questo mondo in costante metamorfosi? I futuri Terzani e Rampini, Pasolini e Saviano, dove impareranno a osservare e indagare, a riflettere e analizzare quello che stiamo facendo, quello che ci viene fatto? I quotidiani non sono infallibili. Spesso i proprietari hanno le loro idee e anche chi vi scrive ha le sue preferenze e i suoi pregiudizi. Ciononostante, i giornali hanno fornito alla nostra società uno degli strumenti più efficaci di dire la verità al potere. Ma chi pagherà i viaggi in Darfur o a Kabul dei giovani esaltati? Chi insegnerà loro le regole del giornalismo se un pubblico attento non è disposto a sborsare $1 o $2 al giorno per il diritto all'informazione? Con buona pace del grande Giacomo, ho sempre pensato che sfogliare le pagine di un quotidiano e scoprire cose che non conoscevo e dovevo ancora imparare fosse un dovere di ogni persona civile. Mi sono sentito veramente adulto solo quando la lettura del giornale è diventata un'abitudine quotidiana. I miei figli invece non leggono i giornali. Dicono di leggerli online, ma io non ci credo. E chi di noi non scorre i titoli delle principali notizie o il compendio di un blogger illudendosi di essere veramente informato? Io non voglio pubblicare libri scritti da blogger. Voglio leggere qualcosa di vero e non di virtuale. Il giornalismo, così come l'abbiamo conosciuto, è un mestiere che si fa sul campo, che si vive nel mondo, con i politici e gli artefici, gli assassini e le vittime. Ma una volta entrati nella bolla di Internet, è come essere nella caverna di Platone. E quelli che vediamo non sono altro che deboli riflessi proiettati sul muro. Il mondo è là fuori, da qualche parte, ma è così inconsistente, difficile da cogliere davvero. È una vita di rimando, una vita a metà, qualcosa di mortale. Avete ascoltato la lettura di un articolo di Jonathan Galassi dal settimanale Domenica, allegato al Sole 24 Ore in edicola oggi. In Croazia fare outing può costare caro, come dimostra la storia di Ana, rinchiusa in manicomio per aver confessato la propria omosessualità. La storia di Ana Dragicevic comincia un giorno qualsiasi di 5 anni fa, quando a 16 anni prende tutto il coraggio che ha, entra in soggiorno e dice: «Mamma, papà, sono gay, amo un'altra donna». La reazione dei genitori, come spesso accade in questi casi, fu di disappunto, di sgomento, di rabbia. Capita. Forse però Ana pensava che prima o poi sarebbero riusciti a farsene una ragione, a perdonarla persino, posto che ci fosse qualcosa da perdonare. Una cosa Ana non poteva immaginare: che i suoi genitori la caricassero in macchina e la portassero fino all'ospedale psichiatrico di Lopak. «Nostra figlia è malata, si droga, dice cose senza senso, curatela». Ana rimase in quell'ospedale per 5 anni. Cure, psicofarmaci, solitudine, paura. Chissà se esiste qualcosa di peggio per una persona sana di mente che finire in manicomio. Sentirsi soli in mezzo a tanti matti che lo sono per davvero. E chissà se esiste qualcosa di più coraggioso che rispondere ogni volta la stessa cosa alla stessa domanda. «Allora, Ana», le chiedevano i dottori ogni 6 mesi, «se potessi scegliere, preferiresti un uomo o una donna?» «Una donna», rispondeva Ana. E giù altri 6 mesi di ospedale psichiatrico. E giù ancora con psicofarmaci, cinghie di contenzione, solitudine, paura. Per 5 anni. Fino a che delle segnalazioni anonime hanno portato la sua storia all'attenzione della corte distrettuale di Fiume, Rijeka. I magistrati chiesero che il ricovero coatto venisse immediatamente sospeso. L'ospedale disse di no, che Ana era malata, drogata e schizofrenica. Alcuni medici falsificarono persino le cartelle cliniche. Solo lo scorso gennaio, per ordine della corte distrettuale, Ana è uscita dal manicomio. Il quotidiano croato Jutarnji List l'ha intervistata pochi giorni dopo il suo rilascio. «Hanno cercato di curarmi dalla mia omosessualità», ha detto la ragazza. «Mi hanno costretto a dire che ero tossicodipendente, anche se non mi sono mai drogata in vita mia. Mi hanno tenuto in isolamento, mi hanno messo la camicia di forza, mi hanno fatto iniezioni e mi hanno imbottito di medicine». Quando Ana è uscita, si è sorpresa nel vedere che il mondo dopo 5 anni era ancora lì. «Mi hanno rovinato l'adolescenza, non ho finito la scuola, ho incubi continui, sono sola e stordita. Cercherò comunque di continuare a vivere. Adesso sto studiando da parrucchiera, mi serve un lavoro». Per quanto toccante sia, la storia di Ana è solo una fra le tante di ordinaria discriminazione e ignoranza che spesso gravitano attorno all'omosessualità. Benché l'Organizzazione Mondiale della Sanità abbia definitivamente stabilito nel 1973 che l'omosessualità non è una malattia, ma una naturale variante della sessualità, ancora in molti sono convinti che si tratti di una malattia, di una variante deviata, di un atteggiamento asociale e pericoloso, persino contagioso, quindi da estirpare e curare. Ana è stata 5 anni in un ospedale psichiatrico croato e ha subito vessazioni di ogni tipo. Nella tollerante Gran Bretagna, però, la situazione potrebbe non essere poi troppo diversa. Un'indagine condotta dalla University of London su un campione di 1400 psichiatri e pubblicata sul giornale BMC Psychiatry ha messo in luce come almeno uno specialista su 6 abbia tentato di curare l'omosessualità e tuttora lo faccia. Il 4% degli intervistati, poi, ha dichiarato di essere disposto a farlo su richiesta del paziente stesso. Oltreoceano, negli Stati Uniti, il dottor Joseph Nicolosi si occupa da anni di terapia riparativa dell'omosessualità e ha fondato la NARTH, Associazione Nazionale per la Ricerca e la Terapia dell'Omosessualità, mentre l'ex presidente dell'American Psychological Association, Robert Perloff, durante una conferenza a Washington nel 2004, si è espresso in favore della libertà di scelta di aderire o meno a terapie per la modificazione del proprio orientamento sessuale. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Luciana Grosso, Croazia, la storia di Ana Dragicevic, 5 anni in manicomio perché lesbica, dal Riformista, del 27 maggio.